Mi dico che non ho tempo per organizzarmi e il permesso al lavoro può essere che non lo chiedo più. E magari domani pomeriggio mi ritrovo a fare il solito aperitivo al Pigneto in mezzo a coloro che il conflitto sociale lo vivono in un bicchiere, con l'aria d'artista e il tormento che trasuda da una maglietta che ti fa rivolta. Oppure no. Pasqua, rimaniamo che ti chiamo domani.